Non so se sia giusto considerare Gianfranco Fini, come si è letto da qualche parte, il nostro primo ministro degli esteri fascista dopo Galeazzo Ciano. Anzi, tutto sommato penso che non lo sia. Non lo è se non altro perché si è preso il disturbo di dichiarare in pubblico che lui con il fascismo aveva chiuso una volta per tutte, e anche se dalle dichiarazioni del genere è sempre meglio diffidare un po', correttezza vuole che le si prendano per buone, almeno fino a prova contraria. Il discorso, certo, sarebbe diverso per il suo partito e il relativo elettorato, in cui credo di fascisti non si sente penuria, ma questo è un dato che stricto sensu non lo riguarda. E poi, su via, i due personaggi sono troppo diversi tra loro per poter azzardare dei paragoni. Fini, quali che siano i suoi difetti, non è un figlio di papà giunto al vertice della diplomazia nazionale per aver sposato la figlia del boss. È uno che per costruire la sua attuale posizione politica si è fatto, come si dice, un mazzo così, non badando a coerenze o a ideologie. È un fascista, se vogliamo, almeno fino alla biula di cui sopra, ma un fascista operoso, non privo di sale in zucca, tutt'altra cosa dunque del povero Galeazzo, che almeno a giudicare dalle decisioni di rifugiarsi dopo l'8 settembre proprio in Germania, di cervello doveva averne per sua disgrazia una fornitura inferiore alla media. E se può dare abbastanza fastidio sapere che una delle cariche politiche più importanti del paese è finita in mano al presidente di Alleanza Nazionale, resta vero che su quella poltrona la politica italiana non ha mai saputo insediare dei grandissimi statisti. La stessa sinistra, nella breve stagione in cui è stata al governo, non ha saputo fare di meglio che metterci Lamberto Dini. Tutto ciò doverosamente premesso, resta vero che una cosa in comune la nomina di Galeazzo Ciano e quella di Gianfranco Fini ce l'hanno. In entrambi i casi si tratta di nomine affatto irrilevanti. Perché un ministro degli esteri sia un personaggio degno di encomio e reverenza, destinato a raccogliere il plauso degli ambienti internazionali e a finire a suo tempo sui libri di scuola e sulle targhe delle vie, è necessario che gli si dia da gestire una politica adeguata. Al minimo una politica interessante. E ora, l'Italia repubblicana, nonostante il buon apparato diplomatico di cui si dice disponga, l'Italia repubblicana una politica estera degna di questo nome non l'ha mai avuta. A meno che si voglia far passare per tale il semisecolare appiattimento a pelle di fico di fronte al padrone americano. E in questo pur modestissimo ambito, al momento le iniziative di un qualche interesse le gestisce direttamente Berlusconi, che infatti si è potuto permettere di cambiare quattro titolari alla Farnesina in 3 anni e mezzo con la disinvoltura di chi cambia dei collaboratori di livello medio-basso, dei collaboratori non troppo importanti. Prima della guerra forse le circostanze erano diverse, se non altro perché era diverso il padrone. Ma anche allora il timone degli affari diplomatici era solidamente nelle mani del duce e al ministro competente non restava che metterci quando richiesto la firma. Non mi sembra in tutta sincerità che al suo attuale successore restino molte altre incombenze. E cosa si può fare in definitiva in una situazione del genere? Poco, pochissimo. Si può provare a fare un po' di fronda, come fece appunto Ciano e probabilmente farà Fini, ma più per passare il tempo che altro. Si può cercare di trarre dalla nuova posizione qualche vantaggio politico, e da questo punto di vista Fini è in vantaggio sul suo predecessore, perché lui ha un partito tutto suo a cui badare, e la prospettiva di arricchire di nuovi parametri la mappa partitica della diplomazia, in cui il lotto in quota d'Alleanza Nazionale sembra sia sottostimato, dovrebbe bastare a tenere occupato per un po' qualsiasi politico. Dopodiché possiamo stare sicuri che a schidonzolare davanti a Bush e a pavoneggiarsi di fronte a Putin ci sarà, come sempre, l'ineffabile Berlusconi. Che tutto questo faccia onore al paese, naturalmente, è cosa assai dubbia, ma è altrettanto dubbio che sia cosa che importi a qualcuno. E non è neanche questione di persone, eh? È uno dei casi in cui il difetto sta veramente e decisamente nel manico.